sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il motorino era vecchio, ma aveva sempre funzionato. Aveva solo un piccolo problema in salita. Se c'era poca benzina, il carburatore si ingolfava. E io, per tornare ad Arzano, dovevo fare la salita di Capodichino. Sono Vincenzo, vivo in provincia di Brescia, sono sposato, lavoro nelle ferrovie come macchinista, mi piace viaggiare e con un sogno nel cassetto, andare a vivere dove si può stare sempre in pantaloncini corti e in canottiera. Le storie come quelle di Vincenzo sono, secondo me, le storie esemplari di questo programma. Cioè, mi spiego, non sono storie straordinarie, come ogni tanto ne arrivano e ci riempiono di felicità perché sembrano dei piccoli film. Sono storie di vita quotidiana, sono piccoli episodi che però vengono catturati da chi li ha vissuti e chi ha deciso di condividerli, nel caso di Vincenzo, ad esempio, nella puntata di oggi, e li illumina di una luce che dice qualcosa di lui e del modo di vedere il mondo. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia. Il programma è Voi siete qui e noi, nella storia che raccontiamo oggi, parliamo proprio di un dettaglio che ha a che fare con la vita non solo di Vincenzo, ma di tutti noi, che è l'idea di avere un pensiero automatico negativo. Cioè, accade una cosa e la nostra reazione è subito, ecco, andrà così, guarda. Vedi un tizio, chissà questo cosa vuole. Finisci in un luogo, questo sarà un postaccio. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui, Radio 24. Ad esempio, ve lo dico banalmente, io ho avuto un periodo in cui, in questo periodo dell'anno, un periodo della mia vita, in cui in questo periodo dell'anno, cioè dal 5 dicembre, o meno da oggi in avanti, dalla festa dell'Immacolata poco prima in avanti, avevo un pensiero automatico negativo sul Natale. Credo che sia una questione di età, no? Dopo che da bambino sia stato super entusiasta nel momento che dice al Natale, eccetera, eccetera, eccetera. Fortunatamente mi è passato, e proprio perché mi è passato vi chiedo di partecipare anche voi, di farvelo passare se ce l'avete, inviandoci un racconto che parli di un regalo di Natale, un racconto che parli di un regalo di Natale che in qualche modo ha cambiato la vostra vita. Voi siete qui, @radio24.it. Noi giovedì prossimo alle 11 e alle 11, giovedì prossimo 11 dicembre alle 16 in punto, lo racconteremo allo store Pirelli di Corso Venezia numero 1. Il vostro pensiero automatico negativo, Serena ad esempio, se c'è uno per strada di notte sicuramente è un criminale, una roba del genere. Non siamo di notte ma siamo per strada, siamo a Napoli e fa un gran caldo. Era forse il 1986 o giù di lì ed io facevo il pendolare tra Milano e Napoli. La mia città di origine, per la precisione, è Arzano, un paese che dista 15-20 minuti senza traffico. Io sono un macchinista che guida i treni e il 15 agosto, forse del 1986, avevo finito di lavorare al mattino presto a Milano Centrale e decisi di prendere il treno per Napoli Centrale per tornarmene a casa a festeggiare il Ferragosto. Faceva un gran caldo quel giorno. Intorno alle 15 arrivai a Napoli e per fare prima avevo lasciato alla stazione un vecchio motorino rosso. Il motorino era vecchio, ma aveva sempre funzionato. Aveva solo un piccolo problema in salita. Se c'era poca benzina, e si era in salita, appunto, il carburatore si ingolfava ed io, per andare ad Arzano, dovevo fare la salita di Capodichino. Era un motorino datato, ma me l'avevano regalato e non mi ricordo neanche, ma era un nome strano, russo, ma vecchissimo. Ce l'avevo parcheggiato lì a Napoli Centrale, nella stazione di Napoli Centrale, perché quando arrivavo così non avevo il problema di aspettare l'autobus, capito? Perché a Napoli non è che viaggiano tanto gli autobus, sono problematici. Quel giorno prendo il motorino e parto sparato. In strada sembra ci sia il coprifuoco, non c'è nessuno. Imbocco la salita a tutta velocità, ma dopo più o meno tre quarti di salita il motorino si spegne. Io sono pronto all'eventualità e so che cosa fare. Mi giro e lo faccio andare in discesa. Io pedalo e infatti lui parte. Dopodiché riparte, mi rigiro per la salita, ma poi mi giro di nuovo, controllo la benzina. C'è, ma ce ne vorrebbe di più. Distributori automatici non ce ne sono e peggio ancora, nei festivi gli autobus extraurbani non circolano. Sudato come una bestia, penso, lo lascio lì. Parto a piedi. L'idea non mi esalta, visto che devo farmi almeno un'ora a piedi sotto il sole. Quel motorino lì ogni tanto faceva queste bizze perché aveva un problema di carburatore. Avevo provato anche a farlo riparare più di qualche volta, ma dava sempre lo stesso problema. E poi dopo, però in pianura, ma quando c'era un po' di salita, era dura, non ne volevo più sapere. E allora l'unico sistema che adottavo era avere quasi il serbatoio pieno, in modo tale quelle volte lì non dava problemi. Nel frattempo, dall'altra parte della strada passa un vecchietto, anche lui su un altro motorino. Nota la mia difficoltà, mi viene incontro. A me pare solo per curiosare, in realtà. Sul motorino tiene con le mani una borsa della spesa nera. Io sono tutto sudato. Non ho ancora deciso se abbandonare il motorino e andare a piedi oppure no. Non trovo niente di meglio da fare che attaccare briga. A me serve della benzina, a te che ti serve? Gli chiedo. Aspetta, mi fa lui. E da quella borsa nera tira fuori un fiasco di vetro pieno di benzina. Prende sto fiasco, pericolosissimo tra l'altro, da portare in motorino, e me ne versa un po' della metà senza dire una parola nel mio di motorino. Poi tira fuori tutti gli attrezzi per pulirmi la candela. Io lo guardo e non parlo, ma penso, ora questo mi chiederà almeno un cinquantino di lire, il solito accattone sulle difficoltà degli altri. Quando rimette a posto tutti gli attrezzi, compreso il fiasco, allora gli chiedo, cosa ti devo? Senza dire una parola, mi facendo con la mano che non vuole niente. Io insisto per dargli almeno 5.000 lire per la benzina, ma lui non accetta. Si rimette sul motorino e se ne va. Non può andarsene così dopo che io l'ho trattato così male. Sento che mi devo sdebitare. Allora rigiro il motorino per rintracciarlo. Ma è sparito. Allora lo rigiro ancora sto motorino, ancora una volta, e me ne torno a casa. Quel giorno, il 15 agosto del forse 1986, verso le 15.30, sono convinto di aver incontrato un angelo. E ancora oggi, quando passo di lì, ci penso sempre. E penso a come siamo abituati a diffidare, a non fidarci di nessuno. Tanto che un gesto così non puoi più dimenticarlo. And no, I never got her name, or time to find out anything. I loved her just the same. And no, I rode a different road and sang a different song. I'll love her till my last breath's gone. Like a river made of silver, everyone came running to the sea. I was shot down in cold blood by an angel in blue jeans. È una bella foto in controsole quella di Vincenzo, ma che è quasi artistica, nel senso che ha il sole alle spalle che filtra dai rami di un albero, forse un ulivo, quindi ci sono proprio questi raggi del sole che illuminano la sua faccia molto sorridente, un cappello in testa, gli occhiali da sole e, come vi dicevo appunto, un enorme sorriso. Pronto Vincenzo? Ciao Matteo, ciao, come ciao, stai? Ciao. Sì, bene, bene. Dove ti trovi in questo momento, Vincenzo? Ora sono a casa, sono qua in provincia di Brescia. Ah, perché adesso non abiti più in provincia di Napoli, in campagna? No, no. Sì, esatto. No, ho sempre abitato qua. Sono venuto su per lavoro, poi sono rimasto. Ah, quindi ormai. Periodo lì pendolavo un po' avanti e indietro e ho avuto quell'incontro. Quella storia. Da quanto vivi in provincia di Brescia? Dal 91. Ah, dal 1991. Come si chiama il paese esattamente, Vincenzo? Chiari. Ah, Chiari, vabbè, paese, una cittadina, Chiari. Sì, che ora poi ultimamente siamo a Castrezzato, però ho vissuto sempre a Chiari e è attaccato, insomma, sì. La è conosci. Vicino, certo, come no, sì, dall'autostrada sì, si passa. Vincenzo, sì, ma lavori ancora sui treni? Sì, purtroppo. sì, sono ancora lì, perché sai che ci sono state 16 istitudini delle pensioni. E allora io sono tra quelli là rimasti incastrati. Guarda, dopo magari ti lascio. Rimani in linea, parli direttamente con Giannino più tardi di questa cosa. Vincenzo, scusami, cosa fai esattamente? Qual è il tuo mestiere? Macchinista, io guido i treni. Tu guidi i treni? Guido il treno da una vita. Senti, tutta una vita sui treni. Raccontami come si guida un treno. Cioè, c'è una leva per andare avanti, una per frenare? Esatto, sì, certo, c'è una trazione perché te ovviamente hai mai usato quelle lampade dove tu c'hai un potenziometro dove diminuisci e aumenti la luce? Certo, il come si chiama? Diciamo così, il dimmer. Esatto, il treno diciamo che funziona all'incirca così, dove te prendi corrente, più ne dai ai motori e i motori incominciano ad avviarsi. E per frenare invece ci sono dei freni veri e propri che sono delle bestie, immagino. Ogni vettura usa il suo, no? E quindi automaticamente, no? Il freno, ultimamente addirittura ci sono dei pulsanti, poi ci sono questi qua elettrici che sono spettacolari, è cambiata di storia rispetto... Infatti, perché da quanto li guidi i treni? Insomma, avrai visto delle evoluzioni incredibili nel mondo No, perché sono venuto dentro che era la vecchia ferrovia, quella lì anacronistica, quasi, non dico del vapore, ma era appena lasciato. Cioè, i motori diesel c'erano ancora? Ci sono ancora, perché tante linee non sono elettriche. Ah, giusto, non c'è l'elettrica. Però c'è stata un'evoluzione, se ne parla così male delle ferrovie, però diciamo che lo sforzo è gigantesco. Adesso, Vincenzo, adesso che treno guidi? C'è una specializzazione? Ora, c'è una patente? Sì, ora siamo stati tutti divisi in settori, le alte velocità, le basse velocità. Ora, e ovviamente le alte velocità sono concentrate nelle grosse città, tipo Milano, Roma. Napoli. Io vivendo qui a Brescia, allora facciamo i treni locali. Ah, quindi fai proprio i locali, diretto, quelli che fermano in tutte le stazioni. Esatto. Che sono passati un po' in secondo piano, vero? Sono un po' meno, diciamo... loro hanno puntato giustamente sull'alta velocità. Tralasciando la bassa velocità, diciamo. Cioè, senti, qual è il tuo treno preferito? C'è un modello di treno che preferisci? Se esistono i modelli come le auto, che ne so. Come modello, mi sarebbe piaciuto ancora guidare quei vecchi che quando sono stato assunto, quei vecchi locomotori marroni che ormai sono spariti. Capito? Che all'epoca erano, c'è qualche film di Totò che li fa ancora vedere. Io pensavo di non lavorarci mai, quando siamo stati assunti pensavamo che era una cosa, invece c'erano più di 10 anni. Senti, ma fai solo passeggeri o anche merci? No, purtroppo una volta era tutto misto, ora invece siamo tutti in settori, le merci fanno parte della cargo e viaggiano per i fatti loro. È un'altra cosa. Quindi noi facciamo soltanto diretti locali, che non si chiamano più diretti, vabbè. Vincenzo, tu hai una famiglia, immagino, hai moglie, figli? Sì, ho una moglie e un paio di figli. Ormai un paio di figli, buttateli così. Bresciani ormai, figli. Sì, sono rimasti qua per loro, per dargli un futuro. Che Napoli, ecco, quella storia lì degli autobus che non passano mai, e allora mi sacrificavo col motorino più volentieri che aspettare un pullman. Che fine ha fatto quel motorino? Quel motorino poi dopo... È morto. Cioè, è mortorino. Scusa, era un motorino. Orribile. Okay. Vincenzo, senti, è stato un piacere chiacchierare con te, grazie per la anche tua storia, che è una piccola perla di un giorno d'estate che mi è piaciuta moltissimo. Okay. A presto, Vincenzo, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao. Voglio raccontarvi la storia di Roberta. Sembra che non c'entri, ma invece c'entra sempre. Roberta è di Roma, ma vive a New York da 18 anni. Ci siamo conosciuti al mare. Io ero diventato amico del suo fidanzato di allora. Poi lui è sparito e lei è rimasta. Tutte le volte che torna in Italia, però, cerchiamo di vederci. Il mese scorso, invece, ero a New York per correre la maratona, e questa roba ve l'ho già raccontata, ed è stata quindi l'occasione per vederci. Insomma, le do appuntamento una mattina per pranzare assieme. Faccio scegliere a lei, ovviamente, che è di casa da quelle parti, e lei mi porta in un ristorante dove la cucina thailandese incontra quella macrobiotica. Insomma, uno di quei posti che puoi trovare solamente là. Dopo che ci siamo salutati, mi dice che ha una nuova grande passione, le neuroscienze cognitive. Non si lascia intimidire dal grosso punto di domanda che legge ovviamente sulla mia faccia, anzi, lo prende come una sfida. Quindi cerca di spiegarmi che la mente è sempre da qualche parte. Viaggia nel futuro attraverso i sogni oppure nel passato attraverso i ricordi. Mi dice che chiunque di noi passa la metà della sua vita con la testa da un'altra parte e che lei muore dalla voglia di sapere dove va dalla sua testa. È così appassionata di quello che racconta che ci dimentichiamo di essere al ristorante. È la cameriera, lei sì, molto presente a se stessa, che dopo che si è avvicinata 3 volte per prendere l'ordine ci chiede per piacere di leggere il menù e poi di continuare dopo la conversazione. Non vuole distrazioni, ordina per tutti e due, tanto sa che mangio di tutto, e poi Roberta riprende. Il cuore della questione per lei sta nel fatto che tutto quello che pensiamo di noi, degli altri e di quello che ci capita, tutte le emozioni che proviamo e i comportamenti che adottiamo, derivano dai pensieri automatici che si creano durante l'incessante dialogo interno con noi stessi. Il problema vero però è che la maggior parte dei pensieri automatici sono pensieri automatici negativi. La mente riconosce e ricorda più facilmente i pensieri automatici negativi e tende a dimenticare invece quelli positivi. Questo probabilmente è un retaggio di quando gli uomini primitivi vagavano nella savana cacciando con archi e frecce e dovevano avere ben presente i pericoli che avrebbero potuto incontrare, più che farsi belli per le prede cacciate. Oggi però, nel bene o nel male, non siamo più cacciatori della savana e le conseguenze nella vita di tutti i giorni non sono sempre buone. Sono i pensieri automatici negativi che ci spingono a pensare che se qualcuno ci gira intorno mentre siamo in difficoltà, vuole per forza ottenere un vantaggio per sé. Ci vuole prendere qualcosa o comunque ci vuole fregare. Roberta mi dice anche che ci sono delle tecniche per combattere i pensieri automatici negativi: coltivare la curiosità, esplorare nuovi interessi, chiedersi quanto tempo è passato dall'aver fatto qualcosa per la prima volta. Insomma, quando ormai mi aveva convinto di essere una brutta persona, per fortuna io mi sento in salvo dal pensiero automatico negativo, visto che il giorno dopo devo correre la maratona per la prima volta. Ma è l'ultimo gancio, perché arriva il mio piatto macrobiotico thailandese e la mia mente, secondo Copione, pensa ad altro. E insomma, alla fine della storia di Vincenzo ho capito che, primo, sapere guidare un treno è un grado di nobiltà. Secondo, un motorino che si ferma sempre in salita è un motorino che non funziona. Terzo, nei fiaschi è comunque meglio tenerci il vino. Quarto, la neuroscienza cognitiva per qualcuno rientra fra gli hobby. E quinto, ogni tanto fare qualcosa per la prima volta è sempre un bel esercizio. Brooklyn is a place that's stuck in my head. Here in Paris, the rain is falling. My heart belongs to Brooklyn. Insomma, ognuno ha il proprio pensiero automatico negativo, che è quel pensiero negativo, appunto, che ti viene a, appena vedi una cosa, automaticamente pensi a una roba che non è buona, insomma, che andrà male o che rovinerà tutto. Giuseppe, ad esempio, al 349-238-6666, ogni volta che mia figlia porta a casa un ragazzo, penso che sia un cretino. Ecco, Giuseppe, questo è probabilmente, oltre a un pensiero automatico negativo, anche un modo per essere prevenuti nei confronti dei maschi che saranno sicuramente inferiori a tua figlia, no? Cioè, forse c'è una sopravvalutazione della propria figlia. Claudio, se parto la domenica ci sarà sicuramente traffico. Ecco, questo è un pensiero, diciamo, automatico negativo che tutto sommato dipende da dove abiti, però probabilmente non è solo così automatico. Io vi ricordo che se volete potete scaricare i podcast di questo programma dal sito di Radio 24, potete continuare a inviare storie e anche domani, che è sabato, potete ascoltarci in una versione che non è Voi siete qui semplice, ma è una versione, uno spin-off, i diari di Voi siete qui alle 14:30. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Paolino Corleoni, grazie a Miriam Lucchetti e soprattutto a Mauro Pescio. Grazie a Vincenzo, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Rocco, vivo a Firenze, la storia di lunedì è la mia e parla di Dumitru e di tradizioni di un paese, la Romania, che sento sempre più vicino. Questa è la mia storia e io sono qui.